I costi del terrorismo, i costi delle cellule jihadiste per organizzare un attacco, ma anche i costi degli stati colpiti per difendersi. E poi dossier immigrazione sul tavolo ONU di Guterres, portato da Francesco Rocca di Croce Rossa. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. 5 terroristas intentan reproducir en esta localidad de la provincia de Tarragona el atentado de las Ramblas. Sicuramente è low cost il tipo di modalità, ma gli aspetti organizzativi non mi sembrano affatto low cost. Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, è venerdì, ultima puntata di questa settimana. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Taglia, che è in redazione insieme a Elisa Pancaldi, e Gianmarco Ferronato, che quest'oggi è in regia con noi. Vi ricordo anche che leggo i vostri commenti e le vostre domande al 349-238-6666, ve lo ricordo, è sempre valido per WhatsApp ma anche SMS. Poi siamo su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, anche lì potete commentare. Infine Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account personale che è Giampaz. Allora, come avete sentito anche dal GR, parliamo di Spagna. 5 terroristas han resultado muertos, el quinto permanecía dentro del vehículo. Han conseguido herir a 7 personas, una de ellas en estado crítico y otra grave, en este intento de atentado que ha sido frustrado por los agentes. Parliamo di Spagna perché l'avete sentito dal GR, le ultimissime, il doppio attacco, una situazione ancora molto fluida, in evoluzione, con fra l'altro l'ultimissima breaking news che riguarda un altro attacco terrorista, ragionevolmente un attacco terrorista avvenuto in una cittadina nel sud della Finlandia. In quest'ora ve ne daremo conto. Quest'oggi però vorremmo provare a mettere una lente e offrirvi un punto di vista diverso per provare a guardare quello che sta accadendo. E il punto di vista diverso è dato dai costi, cioè i costi che vengono sostenuti per sferrare attacchi di questo genere. Oggi El País, per esempio, titolava terrorismo low cost, facendo riferimento a quanto artigianale, rudimentale, amatoriale, se volete, ormai siano le armi utilizzate dai terroristi, ma anche i costi che gli stati europei devono sostenere per fronteggiare questa minaccia. C'è una cifra su tutte, l'abbiamo ripetuta più volte in queste puntate di Nessun Luogo Lontano: per monitorare un sospetto jihadista, pensate che ci vogliono 20 agenti dell'intelligence, quindi un costo e un capitale umano, un'expertise che va messa in campo per monitorare semplicemente un sospetto. E quindi immaginate che vi è un fortissimo squilibrio tra le due forze messe in campo. Quest'oggi proveremo a analizzare meglio questo squilibrio di forze. E lo facciamo dando i numeri, ma partendo da quel tragico attacco alle Torri Gemelle. Secondo le stime della commissione istituita dal governo USA dopo l'11 settembre, abbattere le Torri Gemelle è costato ad Al-Qaeda tra i 400.000 e i $500.000, una cifra relativamente bassa che ha causato danni immensi, ma con costi comunque elevati se paragonati agli ultimi attentati compiuti in Europa, condotti da terroristi solitari o da piccole cellule. Uno studio condotto lo scorso anno dalla economista di Deutsche Bank, Heike Mai, dimostra che per mettere a segno attentati come la strage del Bataclan a Parigi nel novembre 2015, gli attacchi a Bruxelles nel 2016, la strage di Manchester al concerto di Ariana Grande o gli ultimi attacchi a Londra, i terroristi hanno speso in media solo €9.400 a singolo attacco. Se i costi umani rimangono inestimabili, i danni causati all'economia da un attacco del genere possono essere quantificati. Secondo il Comitato regionale del turismo di Parigi e Île-de-France, ad esempio, nel 2016 la regione ha perso €750 milioni, che possono essere imputati in massima parte, anche se non del tutto, alla paura di nuovi attacchi. Mentre in Belgio i danni sono stati valutati anche in termini di assenze dai posti di lavoro per sindromi da stress post-traumatiche, che sono ricadute sulle casse dello Stato, tenuto a rimborsare il 65% dei €2.400 del salario medio belga. La IATA, International Air Transport Association, ha calcolato inoltre che dopo gli attentati del 2015-2016 le compagnie aeree europee hanno registrato un calo del traffico dell'1,6%, pari a 2,5 miliardi di dollari. Ma sono costi che possono anche essere valutati globalmente. Secondo le statistiche elaborate dall'Institute for Economics and Peace, un think tank australiano specializzato in questi temi, nel 2015 il terrorismo è costato all'economia globale 89,6 miliardi di dollari. Allora, questa per sommi capi, un primo rendiconto di quello che vale l'industria del terrore, di quanto efficaci e benefici possono essere gli attacchi. Molto spesso gli attacchi hanno effetti che poi si dispiegano nel tempo, anche a distanza di mesi e a volte di anni, ma poi scopriremo che esistono effetti collaterali a cui i terroristi a volte non pensano. 349-238-6666 per i vostri commenti, e già ne sono arrivati alcuni. Per esempio c'è chi dice: sembra chiara la strategia di colpire l'economia del turismo, vedi Egitto, Tunisia, Parigi, Berlino, Nizza, ora Barcellona e la costa della Catalogna. Poi indagheremo meglio sul perché Barcellona, perché ascoltando anche i talk show ieri sera, questa notte, insomma, si sono sviluppate tutta una serie di ipotesi, a mio parere alcune particolarmente fantasiose, senza citare particolari teorie criminologiche. Dobbiamo sempre ricordarci che i terroristi colpiscono sì dove vogliono colpire, ma colpiscono soprattutto dove possono colpire. È anche un problema evidente di vulnerabilità. L'accesso alle Rambla era possibile e quindi lì è stato fatto. Poi ancora un altro SMS: penso che in una strada pedonale non debbano passare le auto, in alcune ore, ma soltanto polizia e taxi. Ormai questi furgoni bianchi sono famosi, così Maria da Roma. Continuate pure a commentare 349-238-6666, Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è ancora chi ricorda il lavoro che andrebbe fatto, secondo questo ascoltatore, sulla comunità islamica, insomma, facendo comprendere che, facendo gli adeguati distinguo. È un messaggio molto lungo, lo sto riassumendo in questo modo. Poi c'è qualcun altro che dice, che invoca leggi speciali. In Europa sono necessarie apposite leggi contro i terroristi, ma con pene massime e durissime. Così i primi commenti degli ascoltatori. Adesso però volevo tornare a quel titolo di El País, l'edizione online, elpais.com, che diceva terrorismo low cost. Abbiamo raggiunto Guido Travaini, che è professore di criminologia all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. Oggi El País titolava così: terrorismo low cost. Professor Travaini, è d'accordo? Sentite. È un'etichetta sicuramente interessante. Io credo che valga la pena soltanto soffermarsi su una cosa. Sicuramente è low cost il tipo di modalità che è stata scelta, vale a dire che siamo passati, se pensiamo all'11 settembre, da coinvolgere aerei di linea, siamo passati adesso a un furgone noleggiato. Quindi ha un low cost che ha un senso, vale a dire si usano dei mezzi in questo momento che sono molto facili da ottenere e quindi sfuggono a tutta quella rete di controllo che sicuramente le forze di polizia e l'intelligence ha teso per evitare che soggetti magari pericolosi possano venire in possesso di mezzi complicati e che possono fare gravi danni. Quindi in questo senso è un low cost, ma gli aspetti organizzativi di questa azione non mi sembrano affatto low cost. Mi sembra invece che ci sia dietro, per quello che si sa, per quello che si legge, quindi una regola generale occorrerebbe vedere le carte, mi sembra invece che ci sia dietro una struttura che si è mossa, che quindi in grado di fare azioni che siano tra loro coordinate e che sono in grado poi di colpire laddove era più facile colpire. Ecco, questo mi sembra anche un dato molto molto interessante. Hanno colpito Barcellona, ci saranno mille significati dietro questo gesto, ma c'è anche un significato molto semplice. Basta andare su Booking, vedere che in questo momento è difficile trovare un hotel a Barcellona e che quindi in questo momento è una località ad altissima, c'è tantissima gente, tanta gente che è in giro, le Rambla sono un po' come la Promenade des Anglais a Nizza, quindi un obiettivo facilmente raggiungibile. E proprio dalla Promenade des Anglais vi arriva la voce di Guido Travaini, professore di criminologia all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. L'abbiamo raggiunto lì, fra l'altro lui era lì proprio testimone di quell'altro terribile atto terroristico di un anno fa. E ha detto un paio di cose molto molto interessanti. Intanto, vabbè, Barcellona capiremo meglio se ha un significato simbolico per questo attacco, sicuramente lì era facile colpire. E poi ha menzionato booking.com, che al di là di quello che può sembrare, come dire, una leggerezza, è evidente che anche i terroristi possono lavorare sulle fonti aperte. Andare quindi su Booking o su altri siti sui quali si possono prenotare alberghi e andare a vedere che c'è il pienone in una certa città, beh, per i terroristi è evidentemente un'informazione molto molto importante, perché l'atto terroristico mira a colpire ovviamente più persone, più vittime innocenti possibili. (349) 238 6666 per i vostri commenti su WhatsApp. Per esempio, c'è chi dice: in questa guerra perderemo dei gran soldi, in più dobbiamo decidere se perdere anche i nostri principi per salvare le nostre vite o perdere la nostra civiltà per aver salve le nostre vite, così rievocando quello che da alcuni è definito, insomma, ormai scontro di civiltà, scontro culturale. C'è un altro aspetto sul quale, rispetto al quale ho solleticato sempre Guido Travaini, che è un eccellente criminologo e molto attento sull'analisi anche dei dati. Beh, dalle recenti cronache, l'avete sentito anche dal GR, pare, emerge che il comando non mirava a immolarsi, cioè c'era un piano di fuga, c'erano due furgoni noleggiati, poi chiaramente le indagini ci sveleranno meglio esattamente qual era la pianificazione. Questo forse rappresenta una piccola novità rispetto al modus operandi visti negli attacchi in precedenza, in cui magari il terrorista sapeva che sarebbe morto in ogni caso, tentava di farsi saltare in aria. Qui invece c'era un piano di fuga. È forse cambiato qualcosa nel modus operandi? Ancora il professor Guido Travaini. Sicuramente è qualcosa che è diverso da altri. Sicuramente sì. Come forse occorre adesso del tempo, ci sono, mi sembra un dato molto interessante, che sia quello che la polizia spagnola, che è una polizia sicuramente che si sta muovendo in maniera molto efficace, sia riuscita ad arrestare, e quindi ci sarà anche una fase, credo, di estremo interesse, cioè quando queste persone, se e come, decideranno di dire qualcosa. Evidentemente la fuga è un dato in cui queste persone sono fuggite, avevano, risulta dai giornali, queste cinture di addosso a loro che poi sembrano risultare non vere, e sicuramente non si sono immolati, qualcosa è cambiato. Però io starei molto attento a fare delle generalizzazioni, cioè in questa azione c'è un cambiamento, il che non significa che da ora in poi la figura dei vecchi lupi solitari che attaccavano immolandosi sia finita. È qualcosa che sicuramente è di diverso, anche se loro avevano calcolato un elevato rischio di conflitto a fuoco e quindi anche un elevato rischio di perdere la vita. Ecco, il fatto che non si siano fatti esplodere non significa che non avevano quantomeno immaginato, se non pianificato, un concreto rischio di perdita di vita. Quindi, certo, se noi dovessimo applicare la regola generale del crimine, cioè nel momento in cui scegli di fare un'azione criminale, fai una valutazione del rischio. In questo caso il rischio che queste persone si sono prese era comunque elevatissimo. Ecco, questo è un dato da infatti morti ce ne sono stati da parte loro, ecco. Quindi è cambiata un po' questa figura del lupo solitario che va e si fa esplodere. Sicuramente qua non ci siamo. Era la voce di Guido Travaini, professore di criminologia all'Università Vita e Salute San Raffaele Milano, che in qualche modo ha risposto anche a un commento sulla nostra pagina Facebook, nel suo luogo lontano trattino Radio 24, di un'ascoltatrice che diceva: con la differenza che la Promenade des Anglais è stata colpita da un cane sciolto, mentre qua siamo di fronte a un comando. Si tenta sempre di creare parallelismi per capire, scrive questa ascoltatrice, ma questi attacchi sfuggono a molte generalizzazioni. Ed è assolutamente vero, come sottolineava lo stesso Travaini. In realtà dobbiamo aspettare del tempo per capire capire meglio qual era il piano, se qualcosa è andato storto. C'è qualcuno che pensa anche che quell'esplosione in quella casa, le bombole di gas, abbia dovuto accelerare in qualche modo il comando nell'esecuzione di questo attacco. Sono solo ipotesi. Proviamo, per quanto riusciamo, a stare coi piedi per terra e appoggiarci saldamente ai fatti per evitare speculazioni troppo slegate alla realtà, speculazioni inutili. Torniamo sui costi, perché è una voce importante che molto spesso viene sottovalutata. Sono costi umani, sono costi emotivi, perché sono tragedie incredibili, però ci sono anche costi visibili, le cure mediche, gli impatti sociali, l'industria del turismo che viene affossata. Torniamo su quella Promenade des Anglais dove abbiamo raggiunto Guido Travaini proprio poche ore fa. Quanto e come si può quantificare la ferita che Barcellona ha ricevuto? Sentite il criminologo. In tema di costi, evidentemente ci sono dei costi diretti e dei costi indiretti. Come ci sono delle vittime dirette e delle vittime indirette. Allora, forse il discorso più sensato da fare è questo: ci sono dei costi che ogni azione terroristica provoca, che sono anche dei costi, prova solo a immaginare la fatica psicologica per tutte quelle persone per superare il trauma, i costi per una città, ecco, questi sono evidentemente dei costi enormi, e poi il costo maggiore è la sofferenza che viene provocata. Ma detto ciò, secondo me c'è un altro aspetto. Ti porto l'esperienza di Nizza. Io l'anno scorso ero a Nizza la sera dell'attentato e in questo momento io sono ancora a Nizza. Ho potuto notare che Nizza quella sera era una città in ginocchio, era una città colpita duramente. A distanza di un anno, sicuramente il dolore delle persone che hanno perso i loro cari è ancora enorme, ma l'altra vittima di quell'attentato, cioè la città di Nizza, si è ripresa. Si è ripresa attraverso dei meccanismi che hanno messo in maggiore sicurezza la promenade, con un lavoro anche architettonicamente interessante. Hanno riattivato un meccanismo di sensibilità verso il problema del terrorismo, e ad oggi io credo che Nizza, a distanza di un anno, si sia risollevata. Quindi forse bisogna proprio distinguere due tipi di vittime. Le vittime come persone purtroppo non ci sono più, è un dolore talmente grande che non si può dire nulla, semplicemente è una tragedia. Barcellona quale vittima? In questo momento in ginocchio, ma non lasciamoci nemmeno abbattere, ci possono essere anche delle reazioni, e forse tra un anno Barcellona potrà, pur ricordando questa tragedia, ripartire, compattarsi e quindi dare anche un segnale che queste azioni terroristiche non vanno a distruggere totalmente. Ecco, questo secondo me è importante. L'esperienza di Nizza me lo sta insegnando proprio in questi giorni. Così Guido Travaini, professore di criminologia al San Raffaele di Milano, che sottolinea un effetto collaterale che evidentemente i terroristi islamici non hanno considerato. L'effetto collaterale è questa ondata di empatia, di simpatia in senso etimologico, di raccoglimento, quel minuto di silenzio. Le società civili europee si coagulano e a volte la Promenade des Anglais, come descriveva Guido Travaini, da luogo di dolore diventa un luogo diverso, che è più sicuro perché sono stati posizionati quei blocchi di cemento e quelle barriere che impediscono atti di questo tipo, e diventano simbolo di una, chiamiamola se volete, resistenza rispetto a questi atti barbari. 349-238-6666. C'è Camillo, per esempio, che dice: parliamo di integrazione, parliamo di costi, dovremmo dire invece che il terrorismo è alimentato da paesi che sono, per così dire, amici. Arabia Saudita, dice questo ascoltatore, gli diamo armi per il petrolio, e poi chi addestra queste cellule, insomma, il merito è dei cosiddetti paesi civili, e conclude sconsolato dicendo parole. Poi c'è chi invoca, non ho capito perché, le sanzioni alla Russia. Ora dicono che il nemico numero uno è il terrorismo, lo dicono quando rinnova le sanzioni alla Russia. E poi c'è chi, non ho ben capito ancora la nazionalità dei terroristi, ancora cittadini europei di seconda generazione. Adesso andiamo a riguardare, come dire, le biografie il più possibile. Le informazioni sono ancora confuse e ve ne darò conto entro le 17. Poi c'è chi scrive: come mai non fanno in Italia non fanno attentati? Beh, vi sono diverse teorie. Una sostiene, dicono gli analisti, gli osservatori, che i nostri servizi sono particolarmente abili nel monitorare. Un'altra teoria, che non nega la prima, dice che l'Italia comunque è un paese di transito, un paese che può essere utilizzato come base logistica e quindi evidentemente, come dire, viene preservata da queste cellule jihadiste che tentano di non scompigliare le carte in un paese molto, molto importante per loro. 349-238-6666, sempre per continuare a parlare di quello che è accaduto a Barcellona. Per continuare questa analisi ci ha raggiunti anche il dottor Leandro Di Natala, ricercatore analista dell'European Strategic Intelligence and Security Center di Bruxelles. Dottor Natala, buongiorno, benvenuto nel suo luogo lontano. Buongiorno, grazie. Allora, il primo punto sul quale la vorrei stimolare è, abbiamo sentito anche dalla scheda iniziale che esiste un grandissimo squilibrio, no, tra gli investimenti dei terroristi, delle cellule jihadiste, che con poche migliaia di euro, perché di questo probabilmente si tratta in seguito riguardo a questo attentato di cui vi stiamo dando conto, creano danni che sono incredibili. Ci sono quei danni emotivi, le vite che ovviamente non hanno prezzo, non hanno costo, e però poi ci sono degli impatti economici fortissimi. C'è questo squilibrio incredibile, no, che denuncia l'efficacia massima di questo nuovo terrorismo. Ma allora, assolutamente vero, però bisogna sottolineare un fatto. Il terrorismo, anche se manca una definizione condivisa, è sicuramente una strategia per ottenere degli obiettivi, ed è la strategia dei deboli, dei combattenti, perché così si definiscono i terroristi, i soldati, sì, che non hanno a disposizione grandi armi sofisticate e quindi devono arrangiarsi con quel poco che hanno. Pensiamo al fatto che la cosiddetta madre di Satana, l'esplosivo che è stato usato a Bruxelles e anche a Manchester e a Parigi, il cosiddetto perossido di acetone triciclico TATP, è possibile ottenerlo tramite materiali facilmente acquistabili nella ferramenta, non ci vogliono moltissimi soldi. Pensiamo ovviamente al noleggio di un furgone, al noleggio di un camion, sono costi, certo, irrisori, però ovviamente la strategia vuole comportare un danno diretto e indiretto, come diceva il professore Entrini prima di me, all'economia di un paese, al turismo di un paese e ovviamente fare lievitare i costi della sicurezza. Però ecco, sottolineerei questo fatto. Sì, è vero che i terroristi possono creare enormi danni ovviamente in termini di vite umane, in termini di danni all'economia, però finora, soprattutto negli ultimi tempi, questi ultimi attacchi hanno utilizzato veramente dei coltelli, dei veicoli, quindi potenziali armi facilmente acquistabili. Questo li rende difficilmente rintracciabili da una parte, però significa anche che non sono dotati di un'enorme forza da punto di vista economico. Io sarei molto più spaventato se riuscissero ad acquistare fucili d'assalto, sì, se riuscissero a contrabbandarli e, sì, se riuscissero a impiegare esplosivi veri di grande natura, insomma, e soprattutto se riuscissero a impiegare, come hanno fatto invece a Parigi, a Bruxelles o a Manchester, dei terroristi addestrati bene all'utilizzo di esplosivi. Certo, cioè, ma lei dice, dottor Di Natala, in buona sostanza il fatto per esempio che quelle bombole di gas gli siano quasi esplose tra le mani denuncia il fatto che non vi fosse un esperto di esplosivi che potesse confezionare in maniera professionale un oggetto, una bomba atta a offendere come si deve, quindi questa improvvisazione, questa amatorialità, chiedo scusa, in qualche modo denuncia una mancanza di conoscenza e di professionalità, sempre in termini criminali ovviamente, che da un certo punto di vista dovrebbe rassicurarci. Vorrei sottolineare bene questo punto. Ancora le indagini sono una fase ovviamente prematura, è prematuro per noi dire esattamente se si trattasse di un comando strutturato o di una cellula che si è autoradicalizzata. Sì. Sicuramente sappiamo che all'interno dell'ISIS c'è una struttura estremamente pericolosa che si chiama EMMI, sì, e che il servizio segreto dello Stato Islamico preposto alle operazioni esterne in Occidente, che ha effettuato proprio gli attacchi di Parigi e Bruxelles, che è in grado di effettuare operazioni estremamente elaborate. E invece questo sembra comunque un po' più amatoriale, insomma, questo sì, sì, e non è la prima volta. Sì. Leandro Di Natale, analista, ricercatore dell'European Strategic Intelligence and Security Center, facciamo una piccola pausa perché poi ho un'altra domanda per lei che riguarda il target, l'obiettivo che è stato scelto, tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun luogo è lontano. Quest'oggi stiamo utilizzando la lente, la... quella dei costi, per cercare di capire meglio come punto di vista quello che è accaduto in Spagna, i costi sostenuti dalle cellule jihadiste esigui rispetto ad altri eclatanti attentati, i costi sostenuti invece dall'Europa per difendersi, pensate all'intelligence messa in campo, pensate alle operazioni dei nostri militari in Italia sulle strade, 7.000 se non erro, i costi sostenuti per esempio per alzare la percezione della sicurezza, che è cosa anche diversa dalla sicurezza stessa, e poi tutta una serie di costi, come dire, emotivi, e quelli sono assolutamente incalcolabili, perché quando ci sono le vittime, purtroppo, come diceva anche il professor Travaini, non ci sono parole. I commenti invece e le parole continuano ad arrivare al 349-238-6666. Un ascoltatore, adesso non trovo più l'SMS, ma ricordo che mi diceva: ma come, e allora i sospettati che abbiamo in territorio italiano? Recentemente ho letto un'agenzia che parlava di almeno 65 espulsioni dal nostro paese per sospetti appunto di affiliazione al terrorismo islamico. E quindi in realtà, per tornare alla questione di prima, l'Italia è molto presente da questo punto di vista, l'intelligence monitora continuamente, c'è tanto lavoro di cui noi ovviamente non veniamo nemmeno a conoscenza, ma che è quotidiano, che è ora dopo ora, per evitare che questi atti si ripetano. C'è poi chi dice: ma come, negli Stati Uniti fino a 30 anni fa c'erano dei sistemi, degli spuntoni per bucare le gomme, insomma, per evitare l'accesso non desiderato alle strade, insomma, lì sulle Rambla è stata trovata un punto di vulnerabilità e, come dicevo, i terroristi ne hanno certamente approfittato. Però torniamo col dottor Leandro Di Natale, che è ricercatore, analista all'European Strategic Intelligence and Security Center di Bruxelles, segue molto da vicino questi fenomeni. Dottor Di Natale, in gergo tecnico quello che è stato colpito è un cosiddetto soft target, ci spieghi meglio? Sì, esattamente. Allora, il soft target è un obiettivo semplice da colpire, che non è difeso da difese passive o attive sofisticate, non è una caserma per intenderci, non è un ministero, e quindi estremamente facile da colpire con armi poco sofisticate come un coltello da cucina o un camion, come abbiamo visto recentemente. Lo Stato Islamico stimola moltissimo il terrorismo fai da te. Con questa serie di attacchi in Occidente vuole conseguire fondamentalmente due obiettivi. Il primo obiettivo è la polarizzazione della nostra società qui in Occidente, ovviamente fomentando la paura e l'odio verso i musulmani, la cui, sì, ricordiamo, la stragrande maggioranza è totalmente contraria al salafismo jihadista. Il secondo obiettivo è quello di fare proselitismo all'interno ovviamente dei propri simpatizzanti, e effettivamente mi ricollego anche al pericolo che minaccia l'Italia. Lo Stato Islamico ha una rivista che si chiama Al-Rumia, proprio Roma, che ha una rubrica che adesso dà linee guida su come fare degli attacchi contro soft target, appunto. E nel terzo numero si indicavano proprio gli attacchi con veicoli, nel secondo con coltelli, nel nono per esempio si incitava a prendere in affitto, a far finta di, come dire, dare in affitto a studenti degli appartamenti per poi prenderli in ostaggio, cercando di fare il più alto numero possibile di morti. Quindi un modus operandi ancora diverso che fino ad ora per fortuna non è stato utilizzato. Certo. Quello che quindi anche questo ovviamente low cost. Sì. Quello che ovviamente però diciamo negli ultimi mesi si è verificato, come prima avevate sottolineato, è il fatto che molto spesso i terroristi cercano una via di fuga. Sì. Perché è ovviamente comunque meglio avere un soldato, tra virgolette, vivo piuttosto che uno morto che possa compiere ulteriori attacchi. Non è la prima volta che si cerca una via di fuga. Già Anis Amri, dopo Berlino, era riuscito a fuggire, ricordiamo fu ucciso poi a Milano. Sì. Il terrorista che ha effettuato l'attacco simile a Stoccolma, la stessa cosa. Il terrorista che ha effettuato l'attacco nel nightclub di Istanbul, anch'esso è riuscito, ha cercato di fuggire prima di essere catturato dalle autorità turche. Quindi, diciamo, quando può, lo Stato islamico cerca di salvare, di incitare i propri terroristi a scappare, alla fuga, per poi immolarsi in maniera eclatante, per esempio durante un blitz delle forze speciali. Quello che vogliono ovviamente attrarre l'attenzione dei media. Chiaro. Per massificare più possibile il guadagno, tra virgolette, delle loro azioni anche da un punto di vista mediatico. Chiarissimo, grazie mille per questa analisi che ci aiuta a comprendere quello che è accaduto in Spagna. Era il dottor Leandro Di Natale, ricercatore e analista per lo European Strategic Intelligence and Security Center di Bruxelles. Grazie mille Di Natale, buona giornata e buon lavoro. Allora, 349-238-6666, in chiusura di questa lunga pagina dedicata ai tragici fatti di Barcellona e non solo, vi ribadisco la cifra che avevo detto: il governo italiano ha espulso nel 2017 fino a luglio 64 persone, lo stesso numero di espulsi nell'intero 2015 e nell'intero 2016 che erano stati 66. Quindi evidentemente un numero piuttosto alto di sospetti che appunto potevano essere pericolosi. Sulla nazionalità dei quattro terroristi, di cui uno in fuga, tre sarebbero marocchini, uno di Melia, l'enclave spagnola in territorio marocchino. Sempre 349-238-6666, continuate a commentare i fatti di quest'oggi. Noi stiamo cercando di raggiungere Francesco Rocca a New York, perché vi anticipavo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano sarà dedicata a questo incontro importantissimo avvenuto con il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, dossier immigrazione posto sul tavolo da Francesco Rocca. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Continuate a scrivere 349-238-6666, leggo alcuni altri messaggi. Non dimentichiamo, racconta questo ascoltatore, i costi indiretti per tutti i cittadini che derivano da introduzioni di nuove leggi che dovrebbero contrastare il terrorismo, a volte inutili, dici, perché colpiscono cittadini rispettosi della legge. Esempio, e fa un esempio molto dettagliato ma anche molto specifico, la nuova direttiva europea per le armi, devo confessare che non la conosco, introdotta esplicitamente per combattere il terrorismo, impone soltanto limiti a cacciatori e tiratori sportivi. 349-238-6666, Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Giampaz oppure Nessun Luogo 24. C'è qualcuno che, come il professor Travaini, è a Nizza, ci twitta così un ascoltatore, dice: ero anch'io a Nizza, vivo per miracolo. È vero, dice, la città si è risollevata, ma non hanno risolto il problema che è, secondo questo ascoltatore, i magrebini di seconda generazione, tutti francesi, chiudono le frontiere a Menton, dice, contro i profughi, dice questo ascoltatore, ma poi i terroristi sono dentro, facendo riferimento al fatto che, vediamo nel caso spagnolo, perché le indagini ovviamente sono ancora in corso, la maggior parte degli attacchi sono stati condotti da cittadini europei, quindi seconda e terza generazione, con passaporto comunitario. Poi Poi c'è chi dice: marocchini, accidenti, credevo che il Marocco fosse immune dal fondamentalismo salafita. Ma c'è chi dice, attenzione, che è un'analisi che io trovo interessantissima, che qua non è un problema di estremisti islamici, è un problema di disgraziati, di fuori di testa, di poveri, di emarginati, di persone di una fragilità e di una vulnerabilità pazzesca, che vengono rapiti da un'ideologia, quella dell'ISIS, che è assolutamente spicciola, che prende l'Islam, lo fa a pezzettini, ne fa un frullato che non ha senso e poi glielo ripropone. Tantissime di queste persone, se leggete le analisi, sono neoconvertiti, sono persone che non andavano mai alla moschea. Insomma, il discorso è particolarmente complicato. Un altro ascoltatore che dice: cosa significa quando viene detto che sono stati degli espulsi? Significa che vengono accompagnati fuori dallo Stato, gli viene dato in mano un semplice pezzo di carta? Gianluca da Verona. Adesso rispondiamo anche a quest'ultima domanda. Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo, aspettiamo, continuiamo a provare. Intanto andiamo a vedere la situazione sulle strade italiane e combattiamo strenuamente con la linea per New York. A tra pochissimo. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Prima Guerra Mondiale ha avuto la sua meglio gioventù. Erano i ragazzi nati nel 1899, ultima leva ad essere chiamata alle armi. E quest'anno diventano maggiorenni altri ragazzi del 99, nati 100 anni dopo, nel 1999. Diventano grandi non in guerra, ma partono anche loro per studiare all'estero, per conoscere il mondo grazie ai viaggi low cost, per fare volontariato o per una gara sportiva. Radio 24 ve li racconta, ragazzi del 99, incontrandoli e facendoli parlare. Di cosa fanno, cosa vorrebbero cambiare, come disegnano il loro futuro. Ritratti di ragazzi straordinariamente normali. I ragazzi del 99 di Maria Piera Ceci. Il sabato alle 14.30 e la domenica alle 9.30 su Radio 24. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Il litigio con la linea newyorkese è andato bene, abbiamo vinto noi, e quindi do il mio benvenuto, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, a Francesco Rocca, presidente di Croce Rossa Italiana, vicepresidente di Croce Rossa Internazionale. Rocca, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, presidente, lei ha appena visto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, un incontro molto importante. C'erano un po' di temi molto importanti sul tappeto. Il primo che vorrei analizzare con lei nei prossimi 10-12 minuti: l'accesso umanitario in Libia, perché è il grande punto di domanda che adesso ci si pone. Avete parlato di questo? Sì, decisamente era uno dei punti chiave che dovevamo affrontare con Guterres, e la nostra preoccupazione, che abbiamo avuto modo di rappresentare, è che in questo momento per gli operatori umanitari in Libia non c'è accesso, non c'è sicurezza e non è garantito l'accesso costante, presente in quelli che sono chiamati centri di detenzione, ma che in realtà sono centri dove la violenza viene consumata praticamente a livello quotidiano nei confronti delle persone che sono trattenute contro la loro volontà. Allora, presidente Rocca, facciamo una cosa: siccome l'audio non è buono, proviamo a richiamarla, ci dia un minuto, anche voi cari ascoltatori, dateci un minuto, perché l'audio non era per niente buono e non vorrei che vi perdeste alcuni pezzi. Intanto, mentre lo richiamiamo, facciamo un ultimo passo indietro. C'è chi cinicamente dice: ma l'Italia sarà percepita come luogo sicuro per le vacanze oppure come prossimo obiettivo dei terroristi? 349-238-6666. Manuel dice: dovremmo controllare H24 i movimenti, le mail, le telefonate delle persone classificate dalle forze dell'ordine come integralisti islamici, vale per tutti i paesi europei. In realtà questo è il grande sforzo che fa l'intelligence, che per il momento, insomma, toccando ferro ovviamente, ha pagato nella situazione italiana. Poi c'è Twitter, Nessun Luogo 24, ma nel frattempo abbiamo ritrovato il presidente Francesco Rocca. Rieccoci Rocca, vediamo se la linea è migliore. E così va meglio? Sì, molto molto meglio. Allora, giustamente sottolineava che, allora, nei campi di detenzione in Libia è molto difficile l'accesso, lo è per i giornalisti, lo è anche per gli umanitari. Vorrei fare un distinguo, se permette, Presidente, perché come ci spiegava Francesca Mannocchi a questi microfoni qualche giorno fa, giornalista freelance, esistono i campi di detenzione ufficiali, ma poi ci sono quelli ufficiosi. Rispetto a questa distinzione, come vi ponete? Ma guardi, quelli ufficiosi, molti di questi sono gestiti o dalle milizie o dai trafficanti stessi. È ovvio che comunque rispetto al livello di violenze su cui abbiamo numerosi report c'è poco da distinguere. Il tema è unico e indistinto, se mi consente. Cioè non c'è accesso e in questo momento le persone in Libia sono sottoposte a violenze di ogni tipo. E su questo parlano evidenze, non è il sentito dire, non è una leggenda, è una cosa che accade tutti i giorni, ahimè, in quel territorio. Sì. Le vostre richieste all'ONU, a Guterres come segretario generale, sono ovviamente di poter accedere in Libia, ma sono anche di altro tipo. Ultimamente la Libia cosa ha fatto? Ha ampliato quella zona fino a 70 miglia marine di cosiddetta SAR, cioè Search and Rescue, ricerca e soccorso dei migranti, con delle conseguenze. Come Croce Rossa, come spiegate e come vi ponete di fronte a questa scelta libica? Beh, noi ovviamente questa scelta non la condividiamo e riteniamo che accettarla supinamente da parte dell'Unione Europea sia accettare una violazione di quella che è la legislazione internazionale, il fatto che non sia consentito, e nuovamente parliamo di accesso umanitario, alle navi dell'ONG di lavorare in acque internazionali per salvare delle persone ed evitare che vengano riportate dalle acque internazionali, attenzione, non parliamo delle acque territoriali libiche, in un paese in guerra. Allora questo c'è un tema, perché ci si deve spiegare che cosa è cambiato rispetto a 4-5 anni fa, e questo abbiamo detto a Guterres con chiarezza, rispetto al respingimento delle persone in un territorio in guerra dove, come recita la Convenzione sui rifugiati del 51, la libertà individuale degli individui è a rischio. Allora su questo ovviamente c'è un problema giuridico ed etico. Sì. Senta, a quel punto Guterres, come dire, sta, poi andiamo sugli altri punti, accoglie le vostre istanze e si farà promotore in sede ONU, quindi potrebbe essere uno strumento di pressione anche sull'Europa? Sì, assolutamente sì, ci ha garantito ovviamente che interverrà, aumenterà la capacità di moral suasion anche nei confronti delle autorità libiche, in un contesto che però noi per primi riconosciamo estremamente difficile, ma a maggior ragione comunque in una scala di valori la dignità di ogni essere umano e i fondamentali della persona dovrebbero essere protetti. Allora questa decisione unilaterale della Guardia Costiera Libica pone tutto questo a rischio, ripeto, noi non questioniamo la sovranità territoriale della Libia, questioniamo sulle acque internazionali, è ovviamente inaccettabile per quello che ci riguarda. Sì. Francesco Rocca, presidente di Croce Rossa Internazionale, Croce Rossa Italiana, chiedo venia, e vicepresidente di Croce Rossa Internazionale, ha appena incontrato Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, per portare delle istanze e far sentire la voce di Croce Rossa a livello internazionale. Il dossier è quello libico e quello dell'immigrazione. C'è un punto che noi a Nessun Luogo Lontano abbiamo più volte sottolineato, che si chiama Regolamento Dublino 3. Lo ricordo per gli ascoltatori. Il regolamento Dublino 3 dice fondamentalmente che il migrante deve fare la richiesta di diritto d'asilo o di altre forme di protezione nel primo paese che tocca, il che vuol dire evidentemente l'Italia, la Spagna o la Grecia, soprattutto l'Italia. Che cosa avete chiesto rispetto al regolamento Dublino 3 a Guterres? Ma lì non c'è stato bisogno di chiedere, perché è stato lui che ha aperto il fronte dell'assenza di solidarietà da parte degli altri paesi europei, e che l'Italia, sottolineando come l'Italia sia stata lasciata sola alla pari di come avvenne per la Grecia due anni fa. E questo è di tutta evidenza. La cosa, da un lato, ha fatto piacere che ci fosse, ma non poteva essere diversamente. Guterres è stato per lungo tempo commissario dell'UNHCR, l'alto commissariato per i rifugiati, e quindi era ben consapevole di questa grave lacuna europea. E ripeto, i migranti e i rifugiati che arrivano da noi arrivano come porta d'Europa, non certo perché vogliono rimanere in Italia. Allora noi abbiamo nuovamente rappresentato a Guterres quello che avviene tutti i giorni e che i nostri operatori e i nostri volontari vivono a Lampedusa, a Ventimiglia, al Brennero, al confine con la Svizzera, a Como. Cioè c'è un numero di persone che comunque vuole raggiungere altri paesi europei, non vuole trattenersi in Europa, e questa è la grandissima maggioranza delle persone che arrivano in Italia. E non è, e questo è emerso nel confronto, non è alzando i muri o mettendo sicurezza, perché come avete visto oggi si sta spostando sulla Spagna e domani sarà la Spagna ad essere lasciata sola. Allora il tema non può essere quello del risolvere col singolo paese, ma dovrebbe essere un'azione corale che fino ad oggi è mancata, ecco. E questo regolamento va assolutamente rivisto. La mancanza dell'Unione Europea si vede anche molto spesso in azioni schizofreniche, perdonate questo termine, forse poco ortodosso, però pensa all'invio dei 70 militari per esempio al confine del Brennero, la chiusura di Ventimiglia, insomma sembra che ogni paese europeo faccia un po' quello che vuole, lasciando all'Italia questo peso evidente, questa gestione che sta diventando evidentemente difficile. Com'è possibile che in sede europea non si riesca a far sentire una voce sola? Quali sono secondo lei le ragioni di questa politica schizofrenica da parte dei singoli paesi europei che fanno quello che vogliono? Ma guardi, la ragione è il fatto che l'Unione Europea purtroppo non è cresciuta, è nata, ricordiamolo perché è importante, sul Trattato di Lisbona la parola solidarietà era la parola chiave, in realtà questa non è mai stata coltivata e quindi ogni paese ha una sua linea politica, lo si vede anche nelle ultime azioni politiche del governo italiano e del governo francese, sono due interessi che confliggono e tutto questo non giova alla parola solidarietà. È ovvio che fino a quando l'Unione Europea rimarrà soltanto un'unione di interessi economici, questi temi non verranno mai risolti e non c'è volontà di risolverli. Ma questa debolezza europea, perché in fondo poi questo egoismo è una debolezza europea, comunque la paga l'Europa per prima, perché nel frattempo, no, nei paesi che generano migrazione, soprattutto in Africa ma anche in altri paesi del Medio Oriente, chi aziona le leve della politica estera in maniera importante sono i due grandi attori, ovvero gli Stati Uniti e la Russia. Noi come Europa semplicemente non esistiamo, esistono le politiche dei singoli paesi europei, che però non hanno la stessa forza che potrebbe avere l'Europa se lavorasse unita. Allora, Presidente Rocca, siamo quasi in chiusura, parole come solidarietà ovviamente sono parole importanti, detto insomma da chi fa emergenza, soccorso, però poi noi qua cerchiamo di raccontare le cose, i fatti, le soluzioni, in estrema sintesi, mancano due minuti, se dovessimo in qualche modo stilare una ricetta, cosa si può fare per sciogliere meglio la questione immigrazione? Ma guardi, la soluzione principale è quella che era stata individuata lo scorso anno proprio alle Nazioni Unite con la Carta di New York, il Global Compact, un intervento massivo, una capacità di intervenire sui luoghi che generano migrazione. E su questo, ripeto, la Carta di New York è rimasta a carta straccia, me lo lasci dire con amarezza. Allora speriamo che finalmente ci prenda consapevolezza che senza un intervento massiccio in Africa e che genera in questo momento il grande flusso migratorio sui paesi destabilizzati per motivi di conflitto o destabilizzati per motivi economici, sicuramente non ci sarà soluzione. Io in questi giorni sto usando due esempi, me li lascio io prima di concludere. Kenya e Etiopia, sì. Due paesi estremamente poveri che vivono grandissime difficoltà. Il Kenya ha le zone più povere di tutta l'Africa e l'Etiopia altrettanto, però lì con grandi investimenti in presidi sanitari diffusi e in scuola, educazione e istruzione, si è generata una parolina che comunque fa la differenza, la speranza, e questi paesi non generano migrazione. Allora, noi sappiamo che la chiave è quella, e non è essere naif a dire questo, è ovvio che è una chiave a medio-lungo termine, certo. Perché nessuno ha la chiave a breve termine, però se non si inverte la tendenza e una capacità di rivedere la politica in quel continente, questo è un fenomeno epocale che di certo non fermeremo alzando un muro in Libia o a Ceuta domani o come abbiamo fatto ieri in Turchia. Grazie non mille. È così che si risolve il problema. Grazie mille. Francesco Rocca, Presidente Croce Rossa Italiana, Vicepresidente della Croce Rossa Internazionale, appena uscito dall'incontro con Gutierrez. Buona giornata, buon lavoro, Presidente. Titoli di coda, velocissimi. Sì, via. Con i quali ringrazio Antonio Tali e Elisa Pancaldi in redazione a confezionare con me anche questa puntata, Gianmarco Ferronato, il ritmo e la musica che ci ha messo pure lui, voi che siete stati all'ascolto e avete commentato così massicciamente questa puntata, l'appuntamento è per il meglio di questo weekend e poi di nuovo lunedì prossimo ore 16, nessun luogo sarà lontano, buon weekend, un saluto da Gianpaolo Musumeci.